Scricchiola forte il suo legno, sedendosi sul soffà, tappeti divisi da troppi discorsi, da notti vissute tra il bene e il male. Rimango riflesso sul tavolo a specchio che era là. Mi tornano in mente ricordi lontani che scricchiolano nella notte. Allora dimmi perché, dimmi perché. Chissà, non hanno mai avuto l'idea di cambiarlo sto vecchio sofà. Sarà che fa poesia parlare con le antichità. Sarà la nostalgia che scricchiolando qualcosa dirà. Scricchiola forte il suo legno, sedendosi sul soffà, tappeti divisi da troppi discorsi, da notti vissute tra il bene e il male. Rimango riflesso sul tavolo a specchio che era là. Mi tornano in mente ricordi lontani che scricchiolano nella notte. Allora dimmi perché, dimmi perché. Chissà, non hanno mai avuto l'idea di cambiarlo sto vecchio soffà. Sarà che fa poesia parlare con le antichità. Sarà la nostalgia che scricchiolando qualcosa dirà. Sarà che fa poesia parlare con le antichità. Sarà la nostalgia che scricchiolando qualcosa dirà. Io spero. Nutri, luru vopo virka nutri, luru vopo virka nutri, luru vopo virka nutri, luru vopo virka nutri, luru vopo virka nutri, luru vopo virka nutri. Canuto.